Ma che è sta musichetta? Mi sa proprio che è la sigla di Foodopia, che il 30 giugno organizzerà al Forte Prenestino un'iniziativa a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Ore 19, racconto teatrale in musica, Mondo Pane, la piccola grande rivoluzione del pane, rito, mito, trasformazione, resistenza. Con Francesca Camilla D'Amico e Sebastian Giovannucci, un progetto di ricerca teatrale e musicale a cura di Bradamante Teatro. Ore 20:30, cena regionale a base di ricette vegane e vegane dalle mani di cuochi e cuoche del corso di scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità dell'Università di Teramo. A seguire DJ set Rockabilly Psagobilly a cura di Yavan Search and Destroy. Ore 22:30, concertone con i Cyclone da Roma. Tutto questo il 30 giugno a partire dalle 19 al Centro Sociale Forte Prenestino, un'iniziativa a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Ma invece quest'altra musichetta che è? Ma come che è? Sono i Cyclone! Troppo colorati i nostri Cyclone, perché il nostro fagiolino, no, scherzo, invece anche lui, guarda, quasi lo volevo invitare. Mauro, bentornato. Eccoci, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Guarda che sorriso, quant'è che covavi questa iniziativa? Tanto tempo, queste sono quelle che ci piacciono a noi. I quattro contenitori, la scienza, l'arte, la musica, il cibo. E poi insomma anche un po' la goduria, perché questo sarà cibo. Adesso abbiamo avuto sempre delle cucine pazzesche durante gli incontri di Foodopia, tra i pranzi e le cene, devo dire, con materia prima non a caso e mani super capaci. Questa volta comincerei da, non so se abbiamo anche loro da chiamare, però ci saranno studenti e studente del corso di scienze gastronomiche, scienze e culture gastronomiche, la sostenibilità, che non è per cuochi. Racconta che cos'è? Il corso è un corso di laurea triennale in scienze gastronomiche, per cui abbiamo, però sono quei corsi triennali che derivano un po' dall'Università di Pollenzo, no? Per cui è una biodiversità umana, nel senso che ci sono chiaramente persone giovani, però molto spesso arrivano anche blogger, cuochi, cuoche, quindi è trasversale. E in questo caso, appunto, questi ragazzi e ragazze, alcuni di loro sono chef, altri no, però sono bravi a cucinare, quindi insomma li abbiamo invitati, ma non è perché sono bravi a cucinare, perché qui noi su Foodopia ci abbiamo il top del top. Vogliamo parlare delle Pine, le Natasce, insomma, io ne farei un po' dei nomi anche, assolutamente, per parlare di due anni di mani in pasta notevoli. No, assolutamente, però era proprio per in qualche modo per portare anche l'attenzione un po' a questo corso, no, di scienze gastronomiche, perché tanta gente non sa di che cosa si tratta, no? Pensa che sia proprio l'arte del cucinare, invece no, è il cibo a 360 gradi, dove si parla di nutrizione, di antropologia, di comunicazione, tante cose. Eh sì, infatti, e poi diciamo che il cibo e l'arte non vanno mai distanti, cosa c'è di più bello che nutrire i propri sensi? E quindi devo dire che noi tra breve, intanto io abbiamo così il mitico fagiolino, ci ha ritirato fuori Cyclone, insomma io ero una pupa, me ne andavo a vedere come una pazza con la mia piccola cresta tenuta insieme da chili di lacca, roba che non farei più, ma insomma gli anni 80, i primi anni 90 erano anche questi, i Cyclone, che veramente sono felice che tornino, anche perché il rock and roll è veramente, in questo caso poi si chiama Psychobilly, ma insomma la radice quella è veramente un genere un po' accantonato, assolutamente. Ma poi la cosa nasce proprio a me Fagiolino, quando mi ha detto i Cyclone io sono impazzito, perché io volevo loro, no, però ho detto ma non è possibile, no? Invece, ma guarda che ci arriviamo, vedi ma che davvero, e lui può, Fagiolino lui può. E poi insomma il teatro, però io comincerei proprio con i Cyclone, che andiamo a chiamare, ma non prima di farvi ascoltare Cyclone Shock. Come again. The middle of nightmares, speeding fast again, gun sight. Point for the bonus, pretty lean, you lose the night. Cyclone Shock. Insomma, io credo che questa fosse la prima produzione riprodotta poi nel 1989, riprodotta poi ristampata in vinile nel 2019. Sono un po' emozionata, torno giovane, per il concerto dei Cyclone. Io sono con lui al telefono, con Andrea Camerini, appunto, a rappresentare i Cyclone tutti, veramente con tanta gioia. Benvenuto. Ciao Marta, ciao Mauro. Ciao, grazie. Ciao. Grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, insomma, si comincia nell'89, appunto, io venivo a vedere giovane con la mia banana tenuta insieme con molta fatica alla Pantera all'Università La Sapienza, dove avete fatto un sacco di concerti quando ancora ci permettevamo di essere un po' quello che ci pareva senza che ce ne fregasse di meno proprio. Quanto era bello, vero? Certo, assolutamente. Infatti sono stati anni importanti, anni di crescita, di maturazione, di cose bellissime, poi anche di grandi trasformazioni, insomma. Esatto, è stato un po' l'inizio per noi, è stato un po' l'inizio di tutto. È stato un po' l'inizio di tutto proprio in quegli anni. Poi i Cyclone sono arrivati anche molto lontano, a dirne una, fino in Giappone. Ma guarda, in realtà in Giappone non abbiamo suonato, però in realtà abbiamo tantissimi fan là, cioè, nel senso che ci siamo ritrovati per il nostro trentennale, perché poi il gruppo effettivamente aveva un po' concluso la sua esperienza nel 1994 e Nuove Tribù Zulu ha continuato, insomma, a sperimentare delle cose diverse musicalmente parlando, cioè tutto quello che era comunque il popolare, il folk, la world music, l'India. Cyclone appunto nel 2019 si sono riuniti per questo trentennale che ha voluto un po' la clang e poi questo promoter di Milano che ci ha convinti a tornare, perché c'era tante persone e tanti ragazzi che nel frattempo sono passati 30 anni, ma il nostro disco è considerato uno di quelli un po' intramontabili. Esatto. Del circuito. E quindi è stato un piacere tornare insieme, più che altro perché grande amicizia. Poi ecco, Paolo Camerini al contrabbasso e mio fratello Roberto Berini, il batterista del Nove Tribù Zulu, Andrea Pesaduro la chitarra, che è un fratello, insomma siamo cresciuti insieme, quindi è stato bello ritrovarsi e quindi siamo andati a Barcellona nel 2019 a questo grande festival. È stato una bella emozione, insomma, vedere tanti ragazzi che cantavano le nostre canzoni sotto al palco, cose che tu avevi scritto 30 anni prima. Bello. Beh, anche un genere intramontabile, devo dire, sicuramente non... che non spopola, ma che ha una sua, che ha un suo mondo molto molto, anche quello intramontabile, che si ricicla anche nei giovani. Sì, secondo me poi ecco, diciamo che il fuoco del rock and roll, no, poi fortunatamente non muore mai, no? Quindi quando noi abbiamo iniziato nell'87, perché poi abbiamo pubblicato nell'89, e quando abbiamo iniziato eravamo molto affascinati da questo suono ruvido che insomma, avevamo iniziato a sentire i Cramps dall'America, i Meteors dall'Inghilterra, che andavano un po', diciamo, in qualche modo a rompere quello che poi andava molto negli anni 80, no? Nel senso, un po' che c'erano tante cose negli anni 80 molto interessanti, però ecco, anche molta elettronica. Diciamo che noi siamo rimasti molto affascinati da questo Psychobilly, che poi era un po' mescolare rockabilly, punk, psichedelia, dark, tante cose. Noi ci piaceva già questa commissione di generi e quindi ci siamo divertiti. Non così educato come il rock and roll, che forse in quel momento un po' punk della storia ci sembrava un po' troppo preciso, ma ci portava un po' verso quel punk che però, ecco, se non eri proprio punk, insomma, per me è sempre stata questa via di mezzo che mi permetteva di stare un po' ovunque. È vero che sicuramente gli ambienti erano molto più misti, tu potevi andare a un concerto punk, trovare i Dark con questo loro, con questi capelli cotonati alla Cure. Cioè, forse veramente avevamo molti più spazi di libertà, sia mentali che fisici, credo. Ma secondo me sì, c'era comunque anche molta più, cioè, voglia di sperimentare, ma soprattutto non c'era questa formattazione, no? Che poi è avvenuta anno dopo anno. Esatto. Quindi una formattazione culturale, psicologica, voluta, studiata a tavolino. Quindi anche quando, ecco, con le Nuove Tribù Zulu abbiamo iniziato a suonare sulla strada, proprio perché volevamo incontrare le persone, ma abbiamo visto poi anno dopo anno come poi anche la stessa strada, le stesse piazze, no? Cambiavano. Quindi oggi c'è questa uniformità, questo appiattimento che è abbastanza preoccupante, e quindi c'è molto, molto, molto lavoro da fare da un punto di vista anche proprio di rinascita sotto tutti i punti di vista, perché chiaramente c'è stata la distruzione negli anni di un pensiero, no? di un'idea, di un ideale che anche se poi ancora vive, perché chiaramente c'è gente che porta avanti delle cose bellissime come in questo momento la vostra trasmissione, quindi però appunto secondo me bisogna un po' cercare di ricostruire quello che poi è stato anche diciamo disgregato un po' volutamente. La mia generazione, io metto sempre un po' quel fatidico 2001 di Genova, insomma, tra i miei sempre lì torniamo. Per me sì, cioè, sì, sì, per tutti. La mia sì, diciamo, per la mia generazione, però appunto, però sono molto cosciente di quello che è accaduto e oggi ancora di più alla luce di quello che sta accadendo. Beh, quindi ancora di più c'è bisogno di travolgere un po' la gente in questo ciclone, no? Sì, assolutamente. Infatti. No, perché sennò sembra che stiamo a fare un concerto tra vecchi qua. Assolutamente. No, ma invece. Beh, insomma, a noi ci piace ancora andare a ballare, ci piace fare rock and roll. Insomma, secondo me, i giovani, anche chi non ha mai sentito proprio questo genere dal vivo, ha sentito parlare dello Psycho Billy oppure l'ha visto, perché insomma anche i gruppi di cui tu hai parlato poi casomai hanno raggiunto un po' delle vette, però io credo che poi vederlo suonato dal vivo oggi o si viene a vedere voi oppure non so chi si può andare a vedere, quindi è uno spettacolo che dico di non perdere, perché insomma credo che rimangano i gruppi un po' della nostra generazione, della nostra età. Sì, no, ma infatti noi tra l'altro ci divertiamo e ti dirò, insomma, sogniamo ancora meglio, perché comunque fatichiamo la metà rispetto a 30 anni fa, perché insomma poi nel tempo abbiamo portato avanti tante cose e ci divertiamo tantissimo, e c'è questo mescolare anche questo, se vuoi, ecco, a distanza di anni abbiamo ritrovato, magari eravamo appassionati anche di B-movie, no? Appunto lo Psycho Billy poi c'ha queste venature anche horror, no? Molto divertenti, certo. Ecco, Tarantino, un regista come Tarantino poi ha anche in certi film ha anche utilizzato certe atmosfere, no? Che esatto, ne appunto, sono molto vicine, sì, allo Psycho Billy, al Garage, sì molto, quindi sì, sarà un concerto ciclonico. Assolutamente sì, ma no, noi non vediamo l'ora. Non ti dico niente, però passeggiando per Centocelle nei vari locali l'attenzione sta crescendo, l'attesa c'è, si sente perché poi sono quattro anni più o meno, tranne la parentesi all'Init mi pare, l'ultima era il Traffic se non sbaglio, e quindi aspettiamo tutti il concerto. Ma e poi io vi volevo chiedere, ma quando mi capita che faccio due chiacchiere con voi, cioè voi avete questa sensibilità poi anche sugli argomenti che noi trattiamo su Foodopia, per quello è, sì, per me è importante, no? Per noi è importante che veniate ad esibirvi, perché poi voi veramente la sensibilità su tutto l'aspetto della sostenibilità, il cibo buono, a basso costo ma sempre funzionale, importante, salute, pianeta, eccetera, parlando con voi traspare questa cultura di questo approccio che poi è la base, no, degli obiettivi della cultura di Foodopia, no? Perlomeno del messaggio che cerchiamo di trasmettere. Sì, assolutamente, infatti quando appunto ci avete invitato siamo stati felicissimi, perché appunto anche di aderire, ma proprio perché comunque c'è questa occasione, no? In questo momento secondo me sempre più forte, no? di risveglio, perché anche se c'è una linea generale anche di dormienti, ma invece c'è anche tutta un'umanità che si sta risvegliando proprio per ritrovare dei parametri importanti che appunto, come dici te, no? Vanno proprio dal cibo alla salvaguardia del pianeta, alla, secondo me anche alla ricerca di interiore, alla quello che in qualche modo può essere ancora umano, no? Cioè, quindi in un momento in cui avanza clamorosamente l'intelligenza artificiale, invece ecco, noi invece continuare a dire, insomma, che restiamo profondamente umani, e restiamo però profondamente umani anche nella, con un senso di crescita e comunque di trasformazione, di evoluzione, perché appunto vogliamo un'umanità anche nuova, no? Che comunque non ricalchi anche gli errori del passato, ma casomai anzi, che in qualche modo diventi sempre un umano sempre più virtuoso, e mi piace pure utilizzare la parola regale, ma nel senso proprio più bello del termine, cioè proprio più profondo del termine, proprio appunto, quindi anche sempre più consapevole. Sì, sì, che poi è la base, no, del concetto di sostenibilità, no? Che prevede questo, tutto quello che c'è dentro la parola sostenibilità alimentare, no? Benessere, esatto, pianeta, essere umano, ma per chi? Per queste generazioni, ma per le generazioni future, è quella la cosa importante, no? Un costruire o tentare di evitare che venga distrutto quello che già c'è, no? Per cui un costruire qualcosa per chi dovrà ancora venire, che secondo me è l'aspetto proprio più importante. Poi per questo in questo momento ci siamo noi, per cui è importante che salga proprio la conoscenza, no? La consapevolezza su tutti questi aspetti, incluso il discorso appunto interiore che dicevi te, no? In un mondo dove corriamo senza tregua, non c'è mai quell'attimo dove ci si ferma un secondo e si sente il vicino, la vicina o se stessi ancora di più, no? Per cui è assolutamente importante. È un discorso che condivido, sono proprio d'accordissimo con te, anche proprio sull'idea proprio del, appunto, di comunque in qualche modo aprire delle strade per le generazioni future, anche una, appunto con tutta la voglia e l'energia del caso, nel senso che poi ecco anche i ragazzi bisogna comunque in qualche modo cercare di, secondo me, con le nuove generazioni di comunicare sempre di più e cercare proprio anche proprio di unire le differenti generazioni, no? Proprio perché invece qui si tende proprio a dividere, perché chiaramente col dividere appunto divide ed impera. È sempre stato un discorso ancora oggi molto molto valido, purtroppo. Probabilmente l'unico filo rosso continuo dall'87 che avete continuato a suonare fino all'89 per arrivare poi a oggi è stata l'esistenza di Radio Onda Rossa, o dovevo dire, scusate, eh. Giusto, giusto. Certo, motivo per cui siamo qua a fare questo. Certo, ma infatti è importante, importantissimo che certe realtà comunque appunto continuino per fortuna ad esistere, a comunque comunicare determinati valori, no? Cioè, quindi infatti qua non si, appunto non, anche nella nostra esperienza che abbiamo avuto poi dopo con le nuove tribù Zulu, dei tanti viaggi in India, tanto molto importanti, ma non si è mai voluto parlare, diciamo, di un discorso di religione, ma di un discorso invece proprio di conoscenza, cioè proprio di conoscenza, di andare comunque a integrare delle situazioni, perché cercare di in qualche modo di trovare comunque un essere, cioè anche un vivere, un tempo del nostro essere che sia sempre più a 360 gradi, no? Quindi in qualche modo meno duale, è molto difficile, però meno di dicotomie, ma più magari invece di abbracciare, più sferici, forse più madri in un certo senso, no? Madri inteso proprio nel senso più bello, certo, del termine, proprio più accoglienza, nel senso di accoglienza. Ecco, esatto, quindi proprio questo, no? Proprio di disponibilità, di accoglienza, di in qualche modo anche di capacità di comprendere le differenze, di accettazione, di appunto di quella famosa globalizzazione che poi doveva essere, cioè appunto, è vero, ci doveva unire come esseri umani, ci ha assolutamente sbragato, ecco, proprio diviso, ecco, siamo, ecco, infatti, no? Quello che ci circonda oggi, no? Su questi nuovi fronti di guerra, questi colpi di coda di questi dinosauri, esatto. E questo è, però è pure vero che i nodi stanno venendo al pettine, quindi è un periodo molto molto molto affascinante questo per me, poi beh, sicuramente di cose ne succedono, la resistenza verrà messa alla prova, ecco, da questo punto di vista, sì. Bisogna vedere quanto, esatto, siamo capaci di mantenere i cordoni, non so come dire. Bravissima, infatti siamo molto chiamati su questo, infatti, esatto, assolutamente d'accordo, sì, proprio così. Allora, insomma, qui io facevo la vaga ai Cyclone, ma insomma poi l'hanno detto loro, sapete, insomma, che chi non ha conosciuto i Cyclone sicuramente ha conosciuto le nuove tribù Zulu, quindi insomma appunto usciamo anche dallo psychobilly ma entriamo in un bacino molto più grande che è quello delle nuove tribù Zulu e di tutto quello che ci avete portato sia dal rock and roll sia tra virgolette dall'India, nel senso proprio in questa vostra ampissimo lavoro sia musicale sia umano. Quindi io so che tu sei un po' di corsa, noi ci vediamo per Foodopia, è veramente bello sapere che Foodopia ha messo insieme questo così questa equazione che secondo me sarà veramente unica ed esplosiva, quindi sarà bello scatenarsi finalmente e ci vediamo il 30 allora. Eh sì, 30 giugno, appuntamento per tutti, saremo tutti lì, venite lì, raggiungeteci a Forte Prenestino. Sì. Alle 22.30 mi sembra che siamo in programma. Sì. Esatto, la giornata sarà lunga, voi sarete alle 22.30. Un programma bellissimo, quindi ancora grazie. Grazie Marta, grazie Mauro. Grazie a voi, allora dai Cyclone, ci vediamo il 30 dai, e noi dai. Ti saluto con Freddy's Back, sempre dallo stesso disco. Dai, non so se vuoi dire qualcosa su questo brano. Ma questo brano è chiudeva praticamente il disco del 1989 ed è il brano pure che chiude i nostri concerti. Freddy Krueger è proprio l'uomo degli incubi. È l'uomo dei sogni, esatto. È l'uomo che arriva praticamente nei tuoi sogni. Quando ti addormenti. Esatto, Freddy Krueger is back again, quindi assolutamente. Se potrebbe potrebbe essere la metafora di tanti altri personaggi da incubo in questo momento storico. Molto. Beh, ma insomma io in effetti sì. Dottor Cyclone is back again con Freddy Krueger. Un abbraccio, ci vediamo il 30, grazie ancora. Ciao Marta, ciao. Grazie, ciao, a presto. Let's go! E noi abbandoniamo un momento il riverbero dei Cyclone per tornare invece alla parte teatrale di quella che sarà la grande iniziativa di Foodopia in sottoscrizione per Radio Onda Rossa il 30 giugno, ovvero la compagnia Bradamante. Io sono al telefono con Francesca Camilla D'Amico, che sarà una dei due personaggi che troveremo sul palco. Grazie e ben trovata. Ciao, ciao Marta, ciao Mauro, grazie ciao, mille ciao. A voi dell'invito. Allora, uno spettacolo che parlerà della rivoluzione del grano, ma anche un enorme lavoro di ricerca. Che cosa ci vuoi raccontare? Beh, Mondo Pane, anzitutto parto dal titolo, perché veramente quando ci siamo messi a studiare, a ricercare storie che riguardassero questo elemento, l'elemento del pane e quindi anche quello del grano, ci si è aperto un mondo, perché è un alimento che viene un po' dato per scontato, e quando invece è sempre stata la base della nostra alimentazione, pane e companatico, insomma. E partendo da quelle che sono le nostre radici, quindi in particolare dalle storie abruzzesi legate alla mietitura e alla fatica che si faceva nei campi, ai canti che accompagnavano il lavoro e lo sostenevano, da lì insomma ci siamo mossi anche su miti del passato, le storie antiche legate al grano come elemento vivo proprio, accostato alle divinità, ma non volevamo fare solo un viaggio nella memoria, che pure sarebbe bastato, come dire, per raccontare un po' questo elemento, ma volevamo collegarci anche alla contemporaneità, alle storie di chi oggi torna a panificare, magari dopo aver fatto studi diversi, c'è chi ha fatto giurisprudenza, chi geografia, e senza magari neanche avere genitori o antenati legati alla panificazione, hanno deciso di dedicarsi all'artigianato con consapevolezze nuove e anche utilizzando, come dire, una nuova concezione per panificare, che non può essere slegata dal benessere del suolo, del territorio, delle persone che lavorano in agricoltura, che è, diciamo, un tema che in questi giorni sentiamo molto molto vicino, sia per i recenti fatti che sono accaduti, ma anche per le proteste legate all'agricoltura. Non potevamo fare questo spettacolo parlando del pane senza parlare dell'agricoltura, ma sono gli stessi panificatori di oggi che pensano con le mani, come dire, tornano a pensare con le mani, mettendo letteralmente le mani in pasta, questo sì, ma conoscendo anche i vari tipi di grani, come vengono coltivati, chi li coltiva, vanno a vedere, insomma, vanno sul campo a vedere come funziona poi il lavoro agricolo. Quindi non una filiera, diciamo, che viene conosciuta passo passo, dall'agricoltore al mulinaio, alla trasformazione e poi alla vendita. E questo è qualcosa, come dire, conoscere chi si dà da mangiare è qualcosa che i nostri antenati sapevano benissimo, non erano scollegati da questo. Invece oggi dobbiamo ritrovarlo, dobbiamo ritrovare questo. È quasi appunto una rivoluzione per noi, conoscere chi ci dà da mangiare e capire da dove viene quello che mangiamo, e per i nostri antenati non era così, era normale, e non stiamo parlando di secoli fa ma di qualche decennio fa. Quindi lo spettacolo ripercorre una linea del tempo che in realtà non è una linea, ma ci piace pensare che sia un cerchio, che partiamo dalla nascita del grano, da come è cambiata l'umanità quando siamo diventati da cacciatori raccoglitori ad agricoltori, fino ad arrivare, diciamo, alla morte che poi è di nuovo vita. Che cosa la morte suggerisce dentro un elemento vivificante come il grano? E dentro ci abbiamo trovato, insomma, tantissime storie, tanti canti che vi faremo ascoltare, grazie anche a Sebastian Giovannucci, che è un musicista raccoglitore di tradizione orale, che però è anche un pianista jazz e quindi è riuscito a rivisitare la musica di tradizione orale abruzzese e a renderla, diciamo, più fruibile anche ad un orecchio più contemporaneo, ecco. E quello che abbiamo cercato di fare in fondo è non è dare delle risposte, ecco, non è dire come, che pane dovete mangiare, quanto lo dovete pagare, eccetera, ma far sì che le persone, attraverso queste storie che restituiscono non solo l'elemento poetico ma anche politico del pane, possano farsi una loro opinione, un loro punto di vista e magari porre un po' più di attenzione al lavoro agricolo, ma anche alla trasformazione, a tutto ciò che c'è dietro. All'interno dello spettacolo noi nominiamo alcuni dei molti panificatori e panificatrici di oggi. Alcuni di questi appartengono ai PAU, Panificatori Agricoli Urbani, che proprio in un manifesto in 10 punti raccontano la loro poetica del fare il pane, ma anche del fare agricoltura. Ve ne dico uno di questi punti del manifesto, che io ritengo molto interessante, che è: il panificatore è anche un paesaggista. E questo, voglio dire, una cosa del genere sul pane non è stata mai detta, ma in effetti è così, provo a spiegarlo meglio a chi ci ascolta. Se pensiamo che in 9 metri quadri di terreno, cioè 9 metri quadri di terreno servono per fare 2 chili di pane, allora capiamo bene che anche se un panificio si trova in una città come Bologna o Milano, ma magari ha i campi di grano in Abruzzo o in Sicilia o in un altro territorio agricolo che non è alle porte della città, facendo un'agricoltura che rispetta il suolo, che quindi permette anche al suolo di rigenerarsi, sta influendo positivamente sul paesaggio agricolo che si trova anche molto distante di dove viene fatto poi venduto il pane. E questo manifesto è stato redatto molto tempo fa, insomma nel 2018, e i PAU sono un'associazione libera al quale si può aderire diventando soci sostenitori. Non è importante che essere panificatori per partecipare, per comprendere quello che è il loro discorso. Quindi noi abbiamo voluto raccontare alcune delle storie di questi panificatori e panificatrici che ci hanno maggiormente colpito e che in realtà si somigliano un po', perché poi queste persone che magari hanno scelto studi diversi, come dicevo prima, all'università, ma poi hanno deciso magari di seguire altri artigiani a bottega oppure fare dei master in panificazione, piano piano tornare a panificare, a riconquistare un mestiere che si stava perdendo con la grande distribuzione. E davvero sono storie che si somigliano, perché sono tanti i giovani, ma anche meno giovani, che hanno fatto altri percorsi e poi sono approdati a questo tipo di artigianato, però con una visione, ecco, che non possiamo definire esattamente come quella dei contadini dei nostri nonni, perché, ecco, se pensiamo anche a, come dire, al cambiamento che c'è stato in agricoltura attraverso l'utilizzo di chimica, di farmaci, pesticidi, eccetera. Ecco, i contadini, io abito in campagna, abito a Nocciano, nella provincia di Pescara, i contadini qui intorno trattano tantissimo le piante, la vite in particolare, e quindi è molto difficile far capire loro, per esempio, i vantaggi di un'agricoltura che non utilizza questi farmaci, ma che utilizza dei prodotti naturali e delle lavorazioni più rispettose del suolo. Quindi, come dire, a volte c'è questa immagine della campagna e dei contadini come qualcosa di bucolico, quindi i prodotti di cui fidarsi, ma non è esattamente così. Non è esattamente così, sì, questo è un argomento che spesso ricorre, sì, quando facciamo gli incontri appunto di Foodopia, dove la mistificazione del cibo contadino con Ernesto Di Renzo. Esatto, la mistificazione, sì, del cibo contadino, oppure dall'altra parte il fatto che spesso anche da chi probabilmente da generazioni, no? O comunque non è più in una situazione prettamente rurale, in queste zone di mezzo, no? E giustamente si sente che se può risparmiare la fatica, no? Quella fatica che da secoli si trasmette, perché non farlo? Beh, per non farlo, proprio per non perdere tutto quell'enorme bagaglio culturale che in generazioni si è accumulato, no? E quindi appunto sicuramente non sempre il cibo contadino è, allora, spesso diciamo il cibo industriale ci viene romanticamente fatto passare come cibo contadino per farci tornare illusi a quei tempi dove la vita era tutta più meno stressante. Dall'altra parte non sempre il cibo contadino è un cibo sostenibile, è un cibo sano, perché appunto la vita col contadino non è una passeggiata. La vita del contadino richiede una cultura molto distante da quello che ci vogliono propinare, no? Quindi ecco, tornare alla vera vita contadina probabilmente sarebbe molto difficile, perché oggi non te lo permettono più, perché quella è quasi un come dire, un ostacolo a un sistema che vuole appropriarsi del cibo da rifilarti, poi mettere una distanza proprio tra la tua produzione umana e non so come dire, stagionale o comunque rurale. Sicuramente meglio i campi di grano che le grandi intruste che ci fanno trovare il pane imbustato, ecco, questo credo, questo ormai a questo siamo, ecco. Esatto, ed è anche per questo motivo che attraverso il teatro come artisti noi ci sentiamo di prendere una parte, cioè di prendere parte a questa piccola grande rivoluzione del pane e del grano, di chi lo coltiva rispettando il suolo, perché sappiamo il suolo attraverso l'agricoltura intensiva viene impoverito ogni anno sempre di più, e certo quei suoli continuano a dare comunque il grano, ma il germe del grano poi non ha quelle proprietà nutritive che invece può avere un grano cresciuto su un suolo che si è riposato, che è stato nutrito, e questo non è sempre semplice, anche per chi davvero ci crede in questo tipo di agricoltura così rigenerativa. È anche vero che come dire, il prodotto finito, poi il pane che arriva da questa agricoltura, viene venduto in questi forni, ha un sapore completamente diverso da quello che noi possiamo mangiare al supermercato, ma soprattutto dura anche una durata di più. Sì, lo stavo per dire. Esatto, molte persone mi dicono sì, ma non si può pagare il pane così tanto, e io dico è solo una questione di come spendere i propri soldi, perché noi paradossalmente siamo disposti a spendere molto per uno smartphone, magari per un cellulare, o anche a spendere molto per esempio per il vino o per la carne, ma non siamo disposti a spendere qualcosa in più per un pane o per l'olio, per esempio, che sono due prodotti proprio basilari della nostra cultura e della nostra alimentazione, e non siamo disposti a spendere di più, e critichiamo i panificatori alzano il prezzo del pane per rispettare la filiera. Rispettare la filiera vuol dire che l'agricoltore sceglie il prezzo del grano, non lo stabilisce la borsa del grano, ma decide lui o lei a quanto vendere il proprio prodotto, e questo è, sì, è una bella rivoluzione. È normale che il prodotto finito viene a costare qualcosa in più, però è anche vero che dura molto di più. Un pane comprato al supermercato dura 3 giorni, è stato di polistirolo, un pane acquistato da questi panificatori, io ho fatto l'esperienza personalmente, può durare anche 2 settimane se conservato bene. Quindi l'illusione del risparmio di comprare il pane a 3 euro è qualcosa che... come dire, è una sirena, ma non bisogna ascoltarla. Poi sono certa, esatto, che una volta trovato questo tipo di pane non si torna più indietro, perché noi lo raccontiamo nelle nostre storie, le persone anziane che classe comprano questo pane fatto dai giovani e dicono che sa di grano, è il pane che mangiavo da bambino perché sa di grano. E anche, come dire, la rivoluzione culturale passa anche attraverso il sapore, racconta una delle panificatrici di cui narriamo in questo spettacolo, perché a volte lei ci racconta le persone comprano il pane, magari lo comprano perché non sanno tante cose, però gli piace il colore, gli piace il profumo, gli piace il sapore, e quindi lei dice il pane dunque ce la fa anche da solo, no? Però bisogna offrirlo questo pane, certo. E sono molto belli, come dire, anche se si va nelle profondità di quello che il pane simboleggia, che è qualcosa di sacro. Noi sia il pane che il grano l'abbiamo in qualche modo svilito, no? Gli abbiamo tolto proprio il valore, l'abbiamo svalutato, abbiamo reso un prodotto globale come l'olio, come l'oro, come il petrolio, che può essere caricato su una nave in Australia e portato in Italia. Quindi di fatto un prodotto globale che risponde a delle logiche pure speculative, ma nello spettacolo noi ci chiediamo cos'era il pane prima per gli egizi, per esempio, per i nostri nonni, quali sono le leggende legate a questo elemento, e quindi ci muoviamo su, come dire, salti temporali tra passato, presente, ma anche suggerendo, come dire, una prospettiva futura, perché c'è un patto che noi abbiamo fatto con il grano quando siamo diventati agricoltori, quindi 4500 esatto, abbiamo fatto un patto, però adesso bisogna rinnovarlo questo patto con il grano, perché noi siamo 7 miliardi e mezzo, anche di più, e si aspettano per il 2050 10 miliardi di persone. Il grano è la base del nutrimento delle popolazioni, quindi dobbiamo capire come fare per far sì che l'agricoltura resti qualcosa che nutra noi stessi, ma nutra anche il nostro pianeta, che non ci che nutrire non significa poi derubare, saccheggiare il terreno e anche il futuro delle persone che verranno. Quindi, come vedete, Mondo Pane è proprio il titolo giusto, perché si apre anche un universo di lei legato a questi elementi. La musica, come dire, in questo viaggio è fondamentale. Io dico che il lavoro del musicista, di Sebastian Giovannucci, in scena è come un secondo polmone. Sono due polmoni, quello della narrazione e quello della musica. Quindi Sebastian non lavora come una musica di didascalica o di sottofondo, non è questo. La musica è proprio un elemento portante della narrazione. Non potrei immaginare questi racconti senza la musica, che proprio parla con una sua voce. E Sebastian in scena suona diversi strumenti, suona oltre agli organetti diatonici che fanno parte della nostra tradizione, sono anche il 18 bassi, che è un po' più complesso come organetto diatonico, e poi ha una serie di strumenti invece elettronici, sintetizzatori, ma anche strumenti a percussione, insomma, con una semplicità che contraddistingue il suo lavoro, che è molto, come dire, molto puro, lineare, se vogliamo. Dentro c'è una grande complessità, perché intervengono le voci delle fatiche senza volto di queste donne e uomini che lavoravano nei campi nel passato, unite però anche a pezzi più contemporanei, come per esempio abbiamo scelto un matrilineare di CSI, parlando proprio di un elemento che è madre, ma è anche padre, direi. Però ecco, parlando della pasta madre e anche della ciclicità del tempo, delle lune, ci è tornato in mente questo pezzo matrilineare, che si scioglie, viene, come dire, un po' disidratato all'interno di sonorità invece che sono più riconoscibili nel mondo della musica popolare, etnica, Ecco, quindi un lavoro anche complesso, direi, per un musicista giovanissimo che ha 27 anni, ma che ha l'organetto in mano da quando ne aveva 4, figlio della tradizione, perché il nonno di Sebastian era un suonatore, cantore della tradizione popolare abruzzese, che gli ha, come dire, letteralmente consegnato il mestiere. E lui, essendo un ragazzo di oggi, con gli studi poi del conservatorio, che sicuramente il nonno non aveva fatto, ma non per questo non era considerato un musicista, però ecco, Sebastian arricchisce la musica popolare con poi gli studi jazzistici, con una rilettura della tradizione abruzzese, che magari rispetto ad altre tradizioni del sud Italia è meno conosciuta, anche spesso un po' confusa con altre, ma questo, diciamo, non ha importanza, perché poi quello che conta per noi in questo spettacolo è arrivare al cuore delle persone e alle loro riflessioni, ecco. Quindi restituire, come dicevo prima, un po' di poesia, ma anche un elemento critico, politico, in questo elemento apparentemente così semplice, ma come vedete complessissimo. Storia, cultura, musica, narrazione, musica popolare, insomma, uno spettacolo che ha un mondo proprio dentro di sé. Il pane poi porta questo mondo insieme a sé, no? Eh sì, no, ma devo dire che dalle parole di Francesca si evince proprio qual è tutto il mondo di questo spettacolo. Io ho avuto modo di vederlo e arriva tutto quello che lei sta dicendo arriva a chi vede, ascolta questo spettacolo teatrale. È un qualcosa di incredibile, ci sono dei pezzi da brividi, io veramente ho avuto i brividi, e lo dico, e infatti appena finì io sono subito andato da loro, perché devi parlare con queste persone, perché chi riesce a trasmettere questi messaggi trasversali che vanno assolutamente al cuore, al cervello, e ti fanno riflettere, e non puoi non parlarci. E da lì poi è nato un po' questo discorso, no? Che finalmente siamo riusciti un po' a concretizzare, e quindi ad inserirli nel programma di Foodopia, e che secondo me sarà veramente sensazionale, perché lei parla di tutti questi aspetti, ma poi quello che mi preme dire è che c'è una parola, no, che ritorna sempre quando parliamo di cibo ultimamente, no? Che è intensivo. Riguarda il pane, riguarda la carne, riguarda tutto, no? Ci stanno convincendo che noi dobbiamo produrre cibo, perché appunto nel 2050 saremo così tanti che ci serve ancora più cibo. Però poi oggettivamente quello che sta accadendo in questo momento è che ognuno di noi ha a disposizione il 40-50% in più di ogni gruppo alimentare di quello che gli serve, per cui forse a noi non ci serve tanto cibo, ci serve cibo di qualità. E invece questa paura di non riuscire a sfamarci nel 2050 ci ha già portato a questa intensività di qualsiasi prodotto alimentare e commercializzazione attraverso dei canali che sappiamo benissimo quali sono, che non sono quelli di cui parlava Francesca, e quelli che sono poi della tradizione, perdonatemi se lo dico, proprio dei centenari abruzzesi, no? Perché noi nello studio dei centenari abbiamo chiesto a queste persone: ma voi come facevate? Dove mangiavate il pane? Che facevate? Il pane, ma in generale gli alimenti. Produzione propria e scambio. Cioè, stiamo parlando proprio di qualcosa di importante, di diverso, per cui fondamentalmente è importante che ci sia questo messaggio che viene trasmesso attraverso un'estetica che è veicolata dalla voce di Francesca e dalle musiche, le musiche cantate, parlate della tradizione popolare, che sono è un incanto, è un qualcosa che sei assolutamente rapito e rapita per tutto il periodo dello spettacolo. Ma veramente venite, perché vale veramente la pena. Grazie Mauro. Quindi non vi manca che venire alle 19 per cominciare proprio con questo spettacolo, Francesca. Io non direi altro, perché così manteniamo così una curiosità. E io ti ringrazio per la vostra disponibilità a venire a sostenere anche Radio Onda Rossa, insomma, con grazie cui ormai abbiamo aperto. E poi sono contenta che si parla così di Abruzzo, che in termini autonomia differenziate credo che ce ne sia bisogno, di tenere alta comunque una regione così ricca, insomma, così che fa tante cose troppo spesso silenziate, quindi, e che ha un patrimonio culturale al di là della gastronomia comunque anche immenso e sconfinato. Quindi insomma sono anche contenta di portare il nome di queste regioni un po' così tenute in ombra. E allora ci vediamo il 30, appunto, Francesca Camilla D'Amico insieme a Sebastiano Giovannucci col Bradamante Teatro e il loro spettacolo Mondo Pane, la rivoluzione del grano. Ti ringrazio Francesca, ci vediamo il 30. Grazie a voi, aspettiamo. Ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao. Allora, io direi che l'ultima voce ospite è proprio di chi ci farà mangiare il 30, che insomma mi sembrava importante dovergli dare voce, non essendo proprio persone di noi altri, Mauro, no? L'abbiamo detto un po' chi sono, e io direi che mentre io faccio il numero, voi vi sentite un altro brano. Vediamo se lo ritrovo, dei mitici Cyclone, che appunto, come avete sentito, ci abbiamo parlato, ci abbiamo chiacchierato fino adesso. Io direi che vi ascoltate Jungle Cat, mentre io appunto chiamo una voce che ci parlerà di chi ci cucinerà la cena. Oh Gesù, proviamo a Cristo con me. Let me see the jungle cat. Insomma, alle 19:19 io torno, così ogni tanto vi fomento un po' con un po' di rock and roll per ricordarvi che il 30 ci aspetta, sì, questo teatro, ma poi abbiamo da scatenarci e ci scateneremo a pancia piena grazie alle capacissime mani di questa squadra di, come si chiama? Si dice scienziate gastronomiche, Mauro? Ma chissà come si dirà. Comunque il corso ha un titolo complicatissimo: Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità. Però fa capire, no, che l'obiettivo poi è collegare, legare, no, il cibo alla sostenibilità. Beh, come si dice, poi lo possiamo chiedere a Flavia Costantini, che ha al telefono con noi proprio in rappresentanza di questa squadra che, lo dico così tra virgolette, ci riempirà la pancia. Benvenuta, Flavia. Salve, buonasera. Salve, Flavia. Flavia, insomma, è, diciamo, onesta, quasi laureanda, si può dire, ma vabbè, non facciamo spoiler. Sì, poi sì, no, si può dire, lo diciamo forte, no? Dagli occhi vispi, e questo è uno degli aspetti che la caratterizzano, secondo me, no? E diciamo un po' come nasce questa cosa, perché c'è stato un evento che è stato organizzato proprio dal corso. Che cosa avete fatto in questo evento? Che è successo? Qual era la cena che avete organizzato, che è stata a dir poco spaziale? Grazie per i complimenti. Questo inverno, prima di Natale, se non sbaglio, abbiamo organizzato con il professore di cibo e comunicazione un evento. Nello specifico abbiamo organizzato questa cena che serviva proprio a promuovere il corso anche all'interno dell'Ateneo, perché è un corso molto piccolo, di nicchia, quindi facciamo fatica anche a distinguerci tra di noi. E abbiamo organizzato questa cena che abbiamo orientato sul menù vegano, proprio a seguito di tutti gli studi che abbiamo fatto, perché ci sembrava anche opportuno spiegare e dare l'opportunità alle persone di togliere i pregiudizi su quella che è l'alimentazione vegana, sostanzialmente. È stata una serata bellissima alla quale hanno partecipato un sacco di studenti e un sacco di professori, e noi ci siamo divertiti un sacco, e a detta degli ospiti hanno mangiato molto bene. Beh, direi che è riduttivo dire abbiamo mangiato bene, eh? Abbiamo mangiato veramente bene, cioè proprio tutte le variabili importanti che possiamo gustare in quel caso, in quella cena, cioè vedere i piatti già ti incantava, assaggiarli, sentire esattamente tutti gli ingredienti, con qualcosa di veramente veramente spettacolare e soprattutto divertente, no? C'era anche il sindaco di Teramo, c'era un sacco di gente e erano tutti entusiasti. E poi vabbè, poi la serata è continuata. Io credo che mi avete fatto fare le 4 di mattina, cioè io, Dio mio, il giorno dopo avevamo lezione, e devo dire che alle 9 erano presenti quasi tutti, insomma, malgrado avessimo fatto le ore piccole. E quindi proprio per questo poi la proposta, no, di far venire loro, comunque una squadra, no, che potesse in qualche modo farci gustare un menù che fosse simile o comunque che coniugasse le loro esperienze sia professionali sia chiaramente culturali che hanno assimilato appunto nel corso e tramite la loro formazione. E devo dire che loro si sono trovati subito pronti, no? Hanno detto subito sì, veniamo, con un entusiasmo incredibile, e quindi adesso siamo qua, insomma. E proprio per quello che dicevi tu, no? La cosa importante di far veicolare l'importanza di tutti i regimi alimentari, no? Non solo l'onnivoro, ma soprattutto vegano e vegetariano, facendo capire come queste ricette siano veramente appetitose, belle, che ti nutrono il cervello, l'anima, il cuore. È veramente veramente importante, secondo me, in questa giornata del 30, dove hai visto un po' coniughiamo tante cose, sempre con questa parola chiave sostenibilità, iper utilizzata, però nel nostro caso utilizzata veramente. E mo io non voglio che, insomma, far nessuno spoiler, però insomma qualche anticipazione ce la puoi anche dare. Certo, sono qui per questo in realtà. Allora, noi innanzitutto, per rispondere al quesito di prima, siamo una squadra di gastronomi. Oh, ok, gastronomi. Sì, noi nello specifico siamo anche cuochi e pasticceri. Ottimo. E abbiamo pensato a un menù ovviamente stagionale, e poi ci siamo ritrovati un po' in difficoltà a cercare qualcosa di estivo e vegetale tipico delle nostre parti, perché abbiamo notato che si mangia un sacco di carne e quando non si mangia la carne si mangia il pesce. Però siamo arrivati alla conclusione e proponiamo due antipasti, uno molto semplice vegano, che è una cipollata classica, perché anche senza carne possiamo rimanere tutte sante. Non è la carne che appesantisce, è il congiunto. No, assolutamente, assolutamente. Smitizziamo, smitizziamo. Esatto. Poi abbiamo peperoni e uovo, che è tipico proprio dell'Abruzzo in estate, e accompagniamo entrambe le cose con una cosa che si chiama pizza stima, che è una pizza senza lievito, fatta con vino e olio, che abbiamo proposto tra l'altro con altre varianti alla cena proprio dell'università. Attenzione, vino e olio, basico e succulento, devo dire. Poi passiamo a sagni e ceci, quindi la pasta con i legumi, che penso sia il mantra delle persone che hanno un'alimentazione vegetariana, che da noi è proprio piatto tipico e a seconda delle stagioni si fa o con i legumi freschi o con i legumi secchi. Il tipo di pasta cambiano un sacco di cose. Nel nostro specifico quello che cambieremo è il condimento, che sarà fatto a base di aglio nero. Ah, attenzione, che è un aglio fermentato, sì. L'aglio nero è già entrato in un menù di Foodopia di soppiatto, ma questa volta sarà più centrale. Ma è entrato perché sapevamo, io speravo vivamente che loro usassero questo ingrediente, perché lì a quella cena io mi ricordo questo risotto con l'aglio nero e il melograno rosso nero. Mamma mia, tanta roba. Così stiamo spingendo la gente a farsi venire l'acquolina in bocca. Esatto. Poi abbiamo le pallotte cacio e uovo, che penso in molti conosceranno. Eh sì. Tipico. E poi un altro secondo, che questo è stato un po' più complicato, e l'abbiamo deciso insieme a Domenico Consiglio, che è l'altro chef, diciamo. E praticamente tipica sempre del sud dell'Abruzzo è pizza e fui, quando per pizza si intende una torta di polenta di fatto, ma siccome rimane anche lei bella pesante e soprattutto poco pratica per quello che sarà il servizio poi a Foodopia al forte, faremo una crepe di mais, come se fosse un burrito, con dentro i fagioli tondini sempre d'Abruzzo e le fui, che sono verdure miste spontanee, diciamo. Capito. Ovviamente un po' di spezie, che ricorda un po' un burrito, diciamo. Capito? Che succederà il 30? Capito? Si organizzano anche perché sanno che, ecco, siamo un po' in un posto che non è esattamente un ristorante, un'organizzazione disarmante, devo dire. Sì, ma perché noi poi ci vogliamo divertire. Più cose pratiche facciamo, più ci divertiamo. Guarda, questa tua frase mi chiama subito la frase che è un po' il nostro mantra, che di cibo si gode e non si soffra. Così come la bellezza dei piatti. Spesso noi negli incontri con Foodopia parliamo di quanto il tempo della nostra vita influenza la nostra alimentazione. Tu ci hai parlato, abbiamo parlato dei piatti da vedere, e quindi già lo sguardo ti apre lo stomaco, no? Saper mangiare in maniera conviviale, quindi chiacchierando, prendendosi il tempo di farlo, guardando e potendo perdersi nel masticare, nel gustare ciò che si mangia. Se ogni pasto di ogni essere umano potesse essere sviluppato così, staremmo tutti già meglio, credo io, no? Perché questo significa porre una cura su questa cosa, che insomma, non so se tu ci sentivi prima, parlavamo con lo spettacolo teatrale, no? Allora parlavamo di, io posso anche farmi il pane a casa, ma che pane sto facendo, con che farina lo sto facendo, da dove viene quella farina, verrà dal mio paese, verrà dal mio continente, ormai bisogna chiedersi. Questi sono tutti i tempi a cui veniamo obbligati in un sistema che invece ci vuole proprio togliere questa bellezza del cibo, che non è una bellezza della cipolla in sé, ma di come tutto viene fatto, no? Quindi voi vi volete divertire per creare poi una cena in cui noi gusteremo e avremo il tempo di ricreare quella convivialità che dovrebbe essere un po' l'usanza, no? Sì, sicuramente che caratterizza la nostra regione, sicuramente, ma l'Italia tutta. La convivialità, il piacere della tavola. Esatto, e quindi poi vi fermerete a ballare con noi un po' di sano rock and roll. Eh no, perché sì, adesso arriva la domanda, cioè ma voi, ma i Cyclone l'avete mai sentito? Ma non potete averli, ma non li conoscete, sai? Per cui sarà, guardate che sarà una bella sarà esperienza. Sarà un incontro notevole. Perché parliamo di un gruppo, come hai sentito, che è, diciamo, insomma, insieme ad altri ha fatto la storia, insomma, di tanti sotto tanti aspetti, no? Cioè, in un momento importante, insomma... tanta roba, poi al forte, voglio dire, no, vi divertirete sicuramente. Noi, io personalmente sono molto contenta, ma ho sentito anche gli altri, siamo entusiasti. Infatti io sono sicura che questo creerà non solo un momento di convivialità, ma sarà una rete che si apre, che si intesse, in cui poi ci sarà modo, no, poi di far crescere tutto questo in un modo o nell'altro, secondo me, perché ormai inizia il terzo anno di questa futopia geniale, di questa idea di Mauro, che è sempre stata solo in evoluzione in avanti, quindi credo che sia il momento di fare la grande apertura che abbiamo fatto l'anno scorso ad altre menti scientifiche che ci hanno aiutato a parlare dei vari temi. Questa volta io credo che ci possiamo permettere di aprire ancora di più, e quindi portare anche quella che è l'arte, che parla dell'alimentazione, che è la scienza, che non la analizza solo ma la pratica pure, ecco, un po' come voi siete un po', credo, la sintesi di questo, no? Sì, sicuramente, lo sono, e poi sarete anche giovani, essendo insomma studenti, quindi appunto sarà un modo di scoprirsi, insomma il forte ormai ha i suoi anni, i Cyclone anche, noi cominciamo, mettiamola così, quindi sarà un modo di, insomma sarà un incontro per qualcuno, una scoperta, quindi sono molto felice di ricevervi e di avervi in sostegno a questa radio che insomma in tanta resistenza in questo mondo, lo dicevo prima, sono contenta che parliamo tanto d'Abruzzo in un momento di in cui le regioni così vengono frastagliate e punite per la loro grandezza e piccolezza, premiate o punite. Credo che invece questa regione sia di un'importanza a 360 gradi, insomma, non solo per il cibo, per la sua storia, per tante ricchezze che ha. Quindi veramente io vi aspettiamo a braccia aperte e grazie per, insomma, scegliere di cucinare per noi anche. Grazie a voi, sono convinta che sarà una bellissima serata e grazie dell'opportunità. Allora, era Flavia Costantini, insomma, diciamo così, oggi voce della squadra che cucinerà il 30, appunto, all'iniziativa di Foodopia per Radio Onda Rossa, insieme a Mondopane e, insomma, insieme alla compagnia Bradamante con Mondopane e ai Cyclone. Allora grazie Flavia, ci vediamo il 30. Grazie. Grazie a voi. Un abbraccio forte, a presto. Insomma, Mauro, ti sei inventato una cosa pazzesca, No, ma qui questa l'idea di fondo è mia, però dopo è solo grazie a tutti e a tutte voi che si realizza questo. E diciamolo, dai, quello del 30 è sempre la tipologia, rappresenta quello che è proprio quello che ci siamo sempre detti, no? Fare una giornata che sia piena, ma non esageratamente, no? Che sia proprio, come dire, sensibile, ricca, estetica, che ci faccia muovere anche, perché poi mettiamola in ottica della salute, no? L'attività fisica con i Cyclone dopo cena, potete mangiare quanto mangiare, esatto. Qualsiasi cosa potete mangiare, quanto volete, mettiamo insieme tutto, però è proprio quello, no? E soprattutto anche l'ingresso del teatro, dello spettacolo teatrale, no? Quante volte ne abbiamo parlato, e l'anno scorso poi non abbiamo potuto farlo, avevamo un paio di idee, non ci siamo riusciti, abbiamo inserito la musica, abbiamo inserito il fantastico oroscopo gastronomico di Fabiana, e che ha avuto un grande successo, e quello era proprio l'inizio in qualche modo, e adesso a distanza di un anno rendiamo il modello più complesso e sicuramente più appetibile, se mi passi questo termine, proprio da cibo, e quindi poi per l'anno successivo qui ce ne abbiamo di idee, quindi vediamo come va, ma secondo me sarà veramente un bel evento. Sarà spaziale. Allora, che dire, noi andiamo a chiudere questa lunga giornata quando sono le 19:33, ma non prima di avervi fatto risentire questa chicca. Ma che è sta musichetta? Mi sa proprio che è la sigla di Foodopia, che il 30 giugno organizzerà al Forte Prenestino un'iniziativa a sottoscrizione di Radio Onda Rossa.